Rádio Fujiko 103.100 FM. Via Marconi 40. Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Erasmus Plus. I say you have a handful of dirt. I say I wanna crash in a Jaguar. You say you want some love in the backseat. I wanna go out dancing and screaming. The Legendary Tigerman al secolo Paolo Furtado è lui che dà il via all'edizione odierna di Via Marconi 40. Sarà proprio la musica, il sottile filo conduttore che unirà le due città, Lisbona e Porto, non attraverso il rock, ma attraverso la musica tradizionale che si chiama Fado, il Fado di Amalia Rodriguez e della innovativa Maritza. Il fado tradizionale è quello di Porto, che è la seconda città del Portogallo con più di 1 milione di abitanti circa, con numerosi luoghi da visitare per i turisti. La città, ai tempi dei Fenici e dei Romani, era conosciuta come Kale, termine greco che vuol dire bello, al quale venne aggiunto Portus, ovvero porto, fino al quale divenne Portus Kale, da cui deriva il nome della nazione. Porto è una città marittima con una grande tradizione di pesca, di commercio e navale. Girando per la città si possono vedere un sacco di chiese con uno stile barocco. La città, bella, vivace e molto rinomata anche. Pur trovandosi nell'entroterra, Porto trasmette storie e colori tipici di un porto mediterraneo. I ripidi gradini della Ribeira, il quartiere sul fiume, offrono piccoli scorci sul Douro. Porto ha una bandiera tutta sua, molto simile a quella di Esposende, suddivisa in due colori, verde e bianco, e al centro il simbolo della città. Il fado, o fato, quindi destino, ha sonorità diverse nelle due città. In Oporto è più ritmato, ha un tono maggiore ed armonie più alte. Grazie a Maria Manuel Santos è stato riportato in voga uno speciale swing. Que amor não seja amor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem. Lisbona offre una gamma unica di attrazioni culturali, come ad esempio ottimi ristoranti, aree verdi e anche vicoli suggestivi. È una città che mescola agevolmente il proprio patrimonio tradizionale con una sorprendente modernità e anche un pensiero liberale. Lisbona è la capitale più occidentale dell'Europa continentale e sorge sulla sponda destra dell'estuario del Tago. E questa città è anche un importante nodo ferroviario. Secondo me Lisbona è una città bellissima e ricca di fascino, che comprende al suo interno innumerevoli cose da vedere tra arte e monumenti storici. Uno dei simboli più caratteristici della città è il tipico tram giallo. Importantissima da vedere è anche la Torre de Belém, che è stata costruita nel 1519 per proteggere Lisbona dai pirati inglesi e olandesi. Oggi è una bella giornata e Lisbona è una città molto colorata e splende anche tanto. Tra le ricette più classiche vi consigliamo di provare il baccalà fritto con patate fritte tagliate molto sottili insieme a uova strapazzate, servito su un piatto insieme a prezzemolo e olive nere. tipici della cucina portoghese della costa sono anche i pesci in umido abbinati al riso che rendono il piatto unico nel suo genere. Il fado di Lisbona è quello dei sobborghi popolari, realizzato con una chitarra spagnola più una chitarra portoghese a 12 corde. In alcuni casi c'è una specifica viola, detta appunto viola del fado, che accompagna il tutto. Tantas guerras já cessei, procurei-te em vão, eu sei, mas por hoje não vai dar. Pensar que tudo terminou e em mim nada ficou, eu duvidei que este dia chegaria sem receio ou covardia. Nem hesitei e hoje sou livre. Dizer basta, livre como quem se afasta de um sentimento que me arrasta para longe do que eu quero, do que eu quero. Arrasta.